Ideally, your knee should be below your hips. Idealmente le ginocchia nella posizione seduta dovrebbero essere più bassi delle anche. If you find that during this 40 minutes the pain gets just a little too much. Se però trovate che in questi 40 minuti che faremo di meditazione seduta avete un po' di dolore, then just feel free to change your posture. Allora sentitevi liberi di cambiare la postura. And do it very slowly. Fatelo molto lentamente. And those of you who are sitting cross-legged, quelli che stanno seduti a gambe incrociate, if it gets too difficult, you can also kneel. Use the cushion to kneel on it. Se diventa troppo difficile potete anche piegare le ginocchia, inginocchiarvi, usare il cuscino per stare sulle ginocchia. And you can also stand up. Potete anche stare in piedi. So feel free to stand up, to sit down, to kneel down, to stand up, to sit down, to kneel down. Sentitevi liberi di alzarvi, di sedervi, di inginocchiarvi e via. So now make sure that you're lifting up through the top of the head. Assicuratevi di avere una posizione retta, quindi di sollevare il capo. So that's all we need, that's all the energy we need to become fully liberated. È tutta l'energia di cui abbiamo bisogno per giungere alla piena liberazione. And then just spend a moment just relaxing around that column of energy, the spine, the column of energy. Prendetevi un momento per rilassarvi tutto intorno a questa colonna di energia, cioè la spina dorsale. So the eyes are gently closed. Gli occhi sono chiusi delicatamente. The jaw relaxed. Mandibola rilassata. Lips together, teeth apart. Le labbra unite, i denti separati. Shoulders relaxed. Spalle rilassate. And your hands just on your lap, in a comfortable way. Le mani nel grembo in un modo comodo. And draw your attention now to the feeling of the breath in the body. Portate la vostra attenzione ora alla sensazione del respiro nel corpo. Some people feel it in the abdomen, others in the stomach, and others in the chest. Alcuni lo sentono nell'addome, altri nello stomaco, altri ancora nel petto. And at the same time as the body is rising with the breath, note rising, rising. E contemporaneamente al sollevarsi del corpo, così come il corpo si solleva insieme al respiro, ponete una nota mentale, alzarsi, alzarsi. And as the body, the abdomen, the stomach or the chest, as they fall, falling with the out-breath. E con la espirazione, man mano che si abbassa lo stomaco o l'addome o il petto, ponete una nota mentale che dice abbassare, abbassare. So these notes are concurrent with the rising and falling in the body. Queste note mentali sono simultanee al alzarsi e abbassarsi del corpo con il respiro. But your attention is feeling the sensations. Ma l'attenzione è sul sentire le sensazioni, percepirle. Rising, falling. alzarsi, abbassarsi. The mind.